Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo come sempre alcune informazioni di servizio. La prima è il nostro sito radio24.it. Potrete scaricare oramai in tempo pressoché reale tutte le puntate, non soltanto di questa trasmissione ma anche le altre. Troverete anche i profili dei conduttori, tra i quali il mio, e troverete quindi lì il mio blog Guardie o Ladri. Mi farà piacere se continuerete a visitarlo così come sta facendo e magari anche commentarlo. L'ultima informazione di servizio è quella relativa alla nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale riferirsi per segnalare i casi. Una raccomandazione: ultimamente sta accadendo che alcuni casi che ci segnalate molto interessanti noi li prendiamo a cuore, contattiamo come sempre facciamo le parti coinvolte, quindi la controparte di quello che è l'abuso denunciato. Poi magicamente, miracoli non ne facciamo, però magicamente molti di questi casi si risolvono dopo aver sentito la controparte e a quel punto i radioascoltatori preferiscono non intervenire più in trasmissione. Ecco, questo atteggiamento non mi piace, perché non siamo una buca delle lettere o non siamo qui per risolvere i casi personali senza avere poi, come dire, la possibilità di dire quello che è la disfunzione o il disservizio lamentato. Vi prego quindi di tenere fede a quello che fate. Se ci scrivete dovete poi intervenire nel momento prendiamo a cuore il vostro caso. Allora, uno di quelli che non si è tirato indietro, e ringraziando Dio, è stato il nostro radioascoltatore di Settimo Milanese, Mario Maccagni. Buongiorno Maccagni. Buongiorno a lei, dottor Galullo, e suo radioascoltatore. Quindi siamo in provincia di Milano, siamo in Lombardia. Maccagni, ci spieghi un po' che cosa le è successo. Dunque, tra ottobre e dicembre 2009 io ho ricevuto per posta due distinte contravvenzioni per eccesso di velocità, emesse da due sezioni di polizia stradale diverse, quella di Genova e quella di Imperia. Quindi siamo in Liguria, lei percorreva la strada Liguri per il suo lavoro, per fatti suoi, insomma, e si è preso due multe a breve distanza. Sì, sulla A26. In entrambi i casi la velocità veniva rilevata da apparecchiature automatiche, ma la cosa strana è che si riferivano allo stesso giorno, alla stessa ora, e a distanza di circa 2 minuti l'una dall'altra. Ora, io ho letto attentamente i verbali e ho dedotto che gli apparati automatici che avevano rilevato queste infrazioni si trovano sul medesimo tratto dell'autostrada A26 e si trovano a circa 3 km di distanza uno dall'altro. Ecco, quindi insomma, come dire, un tratto nel quale non si può proprio sfuggire se si compie un'infrazione. Allora, lei comunque è stato tra quelli che hanno avuto la forza di studiare un po' il caso, no? E si è rivolto anche ad un'associazione ad Altro Consumo per cercare di avere delle spiegazioni. Ecco, che cosa le ha detto Altro Consumo? Allora, io mi sono rivolto al servizio di consulenza legale, diciamo, perché il problema mio era che nel secondo pagamento ero andato oltre 60 giorni e non sapevo cosa fare. E niente, allora, ovviamente mi hanno detto che un ricorso era ricevibile dopo 60 giorni e mi hanno anche detto che avevano ricevuto comunque già altre comunicazioni del genere, ma non hanno ancora dato una risposta sul da farsi. Ecco, quindi lei li ha consultati, per una le hanno detto che essendo passati 60 giorni non aveva più diritto al ricorso, per l'altro invece mi pare di aver capito che le hanno sostanzialmente ancora detto nulla, cioè è ancora in attesa di una risposta. Più esattamente io una l'avevo già pagata, mi sono accorto della contemporaneità successivamente, quando ho tentato di pagare la seconda, diciamo. Sì, ho capito. Ecco, ricordiamo che il nostro radioascoltatore ha avuto delle multe per infrazioni di velocità rilevate a 120 km e 136 km circa. Lui dice, mi corregga se sbaglio, ma Cagni, da quella che è la mia esperienza e da quello che posso capire anche per aver parlato con Altro Consumo, insomma, ci sono diversi automobilisti che si trovano in questa situazione, così, no? Tra l'altro io ho parlato anche con la sezione di polizia stradale di Imperia. Ecco, questo è importante. Sempre per avere informazioni sul da farsi, perché il mio problema era realmente pagare la seconda infrazione. E anche lì mi hanno fatto capire che non ero l'unico in questa situazione. E tra l'altro mi hanno fatto capire che gli apparati installati erano ben più di due, però nel numero esatto che mi hanno detto mi sembra così mirabolante che non ci credo. Ho capito. Ecco, allora, detto e premesso che, ovviamente, con l'auto bisogna fare molta attenzione, i limiti vanno rispettati perché ne va della sicurezza propria e altrui, va anche detto che da dibattito ormai che impegna da diversi anni le associazioni, le forze politiche e anche la collettività, appaiono alcuni di questi limiti un po' datati, forse superati. C'è una grossa polemica anche nella pervicacia con la quale alcune amministrazioni sembrano rincorrere gli automobilisti, scusate il gioco di parole, soltanto per far cassa. Insomma, spesso in Italia, come accade in più situazioni, da una norma legittima, da un diritto dovere inalienabile, c'è poi chi cerca di approfittarsene per fare cassa o per mettere in difficoltà i propri connazionali. Allora, noi, per avere le idee un po' più chiare su questo caso, abbiamo chiamato un'istituzione del Sole 24 Ore, che è il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Buongiorno Scotti. Ben trovati. Allora, ci dica un pochino che cosa lei ne pensa su questa vicenda, che ripeto è singola, ma non singolare, nel senso che verosimilmente accade in più parti d'Italia quotidianamente che vengano rilevate delle infrazioni al codice della strada per velocità superate in un brevissimo tratto stradale o autostradale. Che lettura lei dà di questa situazione? Innanzitutto dobbiamo pensare che il posizionamento dei diversi autovelox, comunque apparecchiature in genere, dipende dal singolo comando, quindi può anche darsi che le decisioni siano state indipendenti e quindi ogni singolo comando prevede il posizionamento. Dopodiché direi che invece credo che ci sia la possibilità, da un punto di vista giuridico, di porre rimedio a questa stortura. Io vedo personalmente il rimedio nell'articolo 198 del codice della strada, che è una norma che stabilisce che quando un conducente viola più volte la medesima norma o diverse disposizioni di legge con la medesima azione, viene assoggettato alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Però questa è una norma che storicamente viene letta come norma di favore nei confronti di colui che ha commesso l'infrazione, perché si calcola meno grave il fatto di chi con una singola azione, e quindi ponendosi virtualmente solo con una singola azione al di fuori della legge, abbia violato più norme. Quindi di fatto il meccanismo che io consiglio in questo caso è di radunare le diverse sanzioni, in questo caso due, fare presente la situazione alla prefettura e contemporaneamente al comando di polizia stradale e chiedere l'applicazione dell'articolo 198 del codice della strada. E questo è un ottimo consiglio pulito, come dire, legittimo, che lei dava, da dire al nostro radioascoltatore Maccagni, ma potrebbe essere qualunque altro radioascoltatore nella stessa situazione. Lei consiglia di presentare una richiesta formale alle due prefetture, vale a dire a quella di Genova e a quella di Imperia, ai due comandi, che poi devono essere loro a trovare il momento di sintesi per applicare questo articolo 198 del codice della strada in favore del conducente, dell'automobilista. Mi sembra una cosa sacrosanta. Maccagni seguirà questo consiglio? Se questo devo farlo all'interno di un ricorso, purtroppo sono oltre i tempi del ricorso. Allora, vediamo se può farlo lo stesso. Scotti, può farlo ugualmente? Io ho fatto anche una ricerca, ovviamente, su questa situazione e purtroppo non ho trovato dei precedenti, anche perché si è trattato di una ricerca così piuttosto rapida. Tuttavia, nella mia personale interpretazione, si tratta di situazioni diverse. Io ricorro nel momento in cui ritengo che quella di non aver commesso quella violazione. Qua invece chiedo l'applicazione di una norma a mio favore laddove non sono previsti termini di decadenza, anche perché, come è il caso dell'ascoltatore, io posso essere venuto a conoscenza della seconda violazione dopo aver assolto già il primo obbligo pecuniario nei confronti della prima. Ecco che quindi io comunque la presenterei, perché in questo caso io non vedo termini di decadenza. Allora, io ringrazio il nostro comandante della Polizia Municipale di Monza, Monza Scotti, il radioascoltatore Maccagni, credo che il ricorso e il far valere un diritto per un'applicazione, diciamo così, di favore nei confronti di chi ha infranto la legge siano cose diverse, e quindi io presenterei personalmente questa domanda e seguirei i consigli di Scotti. Grazie ai nostri due ospiti, in regia Valeria Bernardi, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.